vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà, catene di monti coperte di neve saranno confini a foreste di abeti. Mai mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si spenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno. Ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. Noi non ci saremo.